Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Da David Bowie a Renato Zero, da Amanda Lear a Madonna. Spesso le star hanno costruito intere carriere giocando sull'ambiguità sessuale. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo la storia della regina del pop degli anni Ottanta. Primavera 2010, Tokyo, Giappone. Una studentessa universitaria entra in un rivenditore di giornali, curiosa un po' in giro, e poi si blocca davanti al quinto numero di Vogue Uomo, edizione giapponese. Sulla copertina, in un ritratto in bianco e nero, c'è un ragazzo con il look da bello e dannato, il cui nome rivela un'origine italiana, Gio Calderone. La giovane ci pensa un po' su, è informata, aggiornata sulle tendenze, eppure non l'ha mai sentito nominare. Allora prende la rivista dallo scaffale e incomincia a sfogliarla con attenzione, scoprendo che si tratta dell'ultima trovata dell'icona pop del terzo millennio, Lady Gaga. Lo scatto è stato realizzato da Nick Knight, il fotografo preferito della diva. Sigaretta in bocca, basette lunghe, taglio corto e abiti maschili e voilà, ecco l'alter ego dell'altro sesso di Lady Gaga. All'interno del magazine un'intervista rivela altre informazioni su di lui. È siciliano, fa il meccanico, lavora con il padre, non ha mai fatto il modello. Ha un account su Twitter, naturalmente creato ad hoc per rendere incredibilmente verosimile l'acuta operazione di marketing che serve a lanciare il nuovo singolo You and I. Lady Gaga stupisce ancora, gridano i più. Ma c'è anche qualcuno che storce il naso. Ha copiato. La polemica, che si affaccia timidamente, esplode in seguito alla performance di Lady Gaga agli scorsi Video Music Awards, quando il confronto con l'esibizione ai Grammy Awards del 1984 di una grande cantante scozzese travestita da Elvis appare sempre più ovvio. Interpellata dai media sulla questione, la signora risponde con l'eleganza che ha contraddistinto la sua carriera. Gaga crea arte incredibile, è eccezionale. Il parallelo era ovvio, ma il fatto che stesse copiando me o qualcun altro non fa alcuna differenza. Le donne hanno indossato abiti maschili per centinaia di anni. È una cosa potente quando una donna indossa qualcosa di meno femminile. È come dire, devi guardarmi in modo diverso. Non sono solo un oggetto sessuale per te. Look androgino e capelli cortissimi. Il suo nome è Annie Lennox. Annie Lennox. Aberdeen, Regno Unito. La terza città più popolosa di Scozia è un susseguirsi di edifici di granito grigio estratto da cave locali, le cui inclusioni di mica scintillano al sole. Per questo motivo tutti la chiamano la città d'argento. Ordinata e culturalmente viva, si affaccia sul mare per un lungo tratto di coste sabbiose punteggiate da chioschi di fish and chips. E quello che anticamente era il nucleo della città, un piccolo villaggio di pescatori, esiste ancora oggi con le sue casette basse fatte per ripararsi dalle tempeste. A sud, il fiume Dee fa da habitat per le lontre, mentre dal porto partono i traghetti diretti verso le isole Shetland e le isole Orcadi, dove è possibile avvistare delfini e balene. Anlyn Angevin Griselda Lennox, che presto tutti iniziano a chiamare semplicemente Annie, viene alla luce nella notte di Natale del 1954. Fa freddissimo, ma d'altra parte ad Aberdeen le temperature non superano i 15 gradi neanche d'estate. Papà lavora nei cantieri navali fin da ragazzino, mentre la mamma è una casalinga a tempo pieno. Una volta, quando era ragazza e viveva in campagna, faceva la cuoca, ma all'età di 24 anni, dopo il matrimonio, ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla famiglia. Sono cresciuta in una famiglia molto unita, c'era sempre calore in casa mia. La nostra casa era un bilocale, niente di pretenzioso, e si trovava al numero 40 di Hudson Street, proprio di fronte alla vecchia fabbrica di tessuti. Alla fine della strada invece lavoravano la plastica, ma la cosa più orribile era l'odore della grande macelleria. Anche se ci stai immerso tutti i giorni, non ti abitui mai. Now Quando Annie ha 4 anni e ancora non sa scrivere, i suoi genitori le fanno fare un test di intelligenza per ottenere l'ammissione alla scuola di Aberdeen per le ragazze. Un istituto prestigioso, nel quale lei, piccola ma sveglia, riesce a entrare senza troppi sforzi. Le divise, come da tradizione, nelle scuole britanniche sono rigide. Uniforme militare e cappello, guanti marroni o neri, scarpe dello stesso colore. Anche il saluto agli insegnanti segue un protocollo ben definito. Ancora oggi me lo ricordo benissimo per quante volte l'ho pronunciato. Buongiorno, Miss Sadler. Grazie, arrivederci, Miss Sadler. È stata una buona educazione perché abbiamo imparato la disciplina. Allieva composta sui banchi, la Lennox rivela fin da subito un carattere schivo e un animo solitario. Quando gli altri bambini fanno l'intervallo, non è raro che se ne stia in disparte, sognando il mondo speciale che ha costruito nella sua testa e nel quale la musica non manca mai. Questa è la sua grande passione, ascoltare i dischi dei grandi cantanti e ripetere lei stessa davanti allo specchio le melodie. Cantare la rilassa, tanto che prima di addormentarsi è abituata a cullarsi da sola con la voce. E così, all'età di 7 anni, le viene concessa una distrazione dallo studio, il pianoforte. La signora Murray è un'insegnante poco convenzionale che ha vissuto in un quartiere malfamato e viene dalla scuola del rap. All'inizio Annie è spaventata dalla sua durezza, ma poco alla volta si accorge che i metodi per nulla ortodossi le offrono in realtà l'occasione per aprirsi. Come quando, dopo aver sbagliato per l'ennesima volta un passaggio, reagisce alle solite umiliazioni di Mrs. Murray tirando fuori tutto il suo carattere. Proprio quello che un bravo insegnante spera di riuscire a fare. Mi faceva piangere, mi faceva spesso piangere, ma col tempo ho capito che lo stava facendo per me, per aiutarmi ad affrontare il mondo a testa alta. Ero una bambina così timida. Grazie a lei ho cominciato ad aprirmi. Ecco perché quelle giornate insieme a Mrs. Murray, perché oltre a imparare a suonare, sono cresciuta. La Scozia è ricca di festival musicali, soprattutto in estate. Sono occasioni per stare insieme, ma anche per scoprire nuovi talenti locali sui quali investire. Annie Lennox viene introdotta su questi palchi proprio dalla sua insegnante di piano, che crede in lei e nel suo talento fin dal primo incontro. Non bisogna lasciarsi ingannare dal fatto che molti di questi festival siano all'aperto e che ci siano ovunque tavolini su cui mangiare. L'atmosfera è davvero formale. Di fronte al palco c'è una giuria presieduta da un importante professionista del settore o da un'autorità che tiene in mano un campanello per segnalare quando iniziare l'esibizione. Per chi sta dietro le quinte, sono momenti di puro panico. Ero soltanto una ragazzina e mia madre mi accompagnava e stava con me fin quando non salivo sul palco. Le ginocchia mi tremavano letteralmente. Era una cosa che si vedeva ad occhio nudo. Non posso dire che ero emozionata, ero terrorizzata. Qualche anno dopo, Annie scopre uno strumento abbandonato a scuola che nessuno usa più. È un vecchio flauto, tenuto insieme da due elastici, e ne è immediatamente attratta. Mette da parte le lezioni di piano e passa allo studio dei fiati, e all'inizio è un disastro. Non riesce a calibrare la forza, soffia troppo, poi troppo poco, si arrabbia, piange, lancia il flauto contro il muro, si chiude in camera sua senza voler vedere nessuno per ore. Finché, tenace e determinata, supera il momento difficile e ce la fa. Poco a poco mette a punto il suono ed entra a suonare nell'orchestra della scuola, che fa le prove ogni sabato mattina. È durante questi mesi che si convince di essere brava, non soltanto per i complimenti che le fanno gli altri, sia più grandi di lei che coetanei, ma perché finalmente ha acquisito abbastanza fiducia in se stessa per guardarsi dentro e dire a voce alta che vuole realizzare il suo sogno, vivere di musica. Mamma e papà, lavoratori concreti, con poche ambizioni artistiche, ma abbastanza lungimiranti da assecondare una figlia dal talento indiscutibile, le propongono di tentare l'ammissione alla Royal Academy of Music di Londra. Non importa i sacrifici economici che dovranno fare e non importa nemmeno se vedranno sempre meno la loro bambina. Sono disposti a tutto, pur di vederla felice. E lei non li delude. Il posto all'Accademia è suo. E ovviamente ero felice, felicissima. Ma proprio come mi succedeva dietro le quinte del festival, appena entrai in aula il primo giorno, le gambe hanno cominciato a tremare. Sudavo freddo, continuavo a ripetermi, ce la farò, non sarà troppo per me. Come farò a uscire da tutto questo? Allora mi sono ricordata quello che mi diceva Mrs. Murray. Ho respirato e mi sono convinta che non poteva succedermi niente di brutto. Un conto è la razionalità, un altro conto quello che ti dice il cuore. Annie è ancora convinta della sua scelta, sa che vuol fare la musicista, ma la manda in crisi il fatto che il flauto non le piaccia più. Per un periodo ogni notte si ripete lo stesso incubo. Lei all'inferno che è costretta a suonare il flauto per i dannati. A nulla serve il conforto della sua compagna di stanza. Ogni volta che si sveglia è un trauma. Cerca di distrarsi dalle domande sul suo futuro con lavoretti saltuari che le servono anche per dare un aiuto concreto alle spese di famiglia. Di tutti, il suo preferito è quello di commessa in una libreria di Notting Hill, proprio come Hugh Grant nell'omonimo film del 1999. Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei. Mia madre ha difficoltà a ricordare il mio nome. Bene. Bene, ottima decisione. Ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare che sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Quando Annie Lennox vive a Notting Hill, siamo all'inizio degli anni 70 e il quartiere non è ancora uno dei più cool di Londra, come viene considerato oggi anche grazie al film con Julia Roberts e Hugh Grant. Dal 1961, però, si tiene lo spettacolare carnevale multietnico portato dagli immigrati sudamericani. Per una settimana a fine agosto, la festa attrae residenti e curiosi, sempre di più da tutto il mondo. Annie non se lo perde mai. Le piace veder sfilare i carri da cui uomini e donne travestiti lanciano coriandoli e stelle filanti con la musica così alta che sembra invadere l'intera città. Ma è anche un periodo difficile per gli scioperi, le manifestazioni dei lavoratori e gli scontri spesso violenti con la polizia. Ricordo un giorno, stavo tornando dal lavoro e un gruppo di manifestanti ha cominciato a lanciare sassi verso gli agenti. Ho fatto una corsa e mi sono chiusa in casa. Avevo paura. Io capivo le loro ragioni, ma mi faceva paura la rabbia che avevano tutti. È in questi mesi che la Lennox per la prima volta intuisce che la sua strada potrebbe essere non soltanto di musicista, ma anche di cantautrice. Mentre continuano i corsi di flauto traverso all'Accademia, sente l'urgenza di scrivere. Ed è così che vengono alla luce i suoi primi pezzi. All'inizio non li fa sentire a nessuno. Appunta accordi e parole su un foglio, prova finché riesce a fare la canzone a memoria e poi se ne dimentica, passa a qualcosa di nuovo. È come se volesse essere sicura al 100% della sua svolta, prima di dichiararla agli altri. Ci vogliono decine di notti insonni, una montagna di carta scritta e una montagna di carta buttata nel cestino, finché con un repertorio ormai piuttosto ricco prende il treno per Aberdeen e annuncia a mamma e papà che non ha più intenzione di seguire i corsi dell'Accademia. Loro, lavoratori pragmatici, senza troppi grilli per la testa, hanno paura che sia un errore. È una follia pensare di poter campare facendo l'artista. Annie potrebbe dedicarsi alla sua musica attraverso l'insegnamento, magari ancora meglio in qualche scuola scozzese. Ma dietro la docilità apparente, la Lennox nasconde una tempra di ferro. Ormai ha deciso, dice addio al flauto e si immerge nella sua nuova vita di cantautrice. Hanno provato a convincermi in tutti i modi, ma io sapevo che non avrei mai insegnato. Non era quello che mi interessava. Mi sentivo forte, decisa, perfino ottimista, che in genere non è certo un atteggiamento che mi appartiene. Sapevo che non sarebbe stato facile. Avevo pudore nel definirmi un artista, però sentivo che ce l'avrei fatta. Dopo le lunghe discussioni in terra scozzese, Annie per orgoglio si mette in testa di non chiedere più alcun aiuto economico ai genitori, che pure sarebbero felici di darglielo. Per sbarcare il lunario, quello che era solo un lavoro alla libreria, si trasforma in molti lavori diversi che lei cerca di combinare in modo da avere coperta l'intera giornata. Commessa in un negozio di abbigliamento, cameriera in un ristorante, barista in un locale dalla dubbia clientela. Va bene tutto, pur di racimolare uno stipendio che le consenta di mangiare e pagarsi l'affitto. Un giorno, mentre gli sta prendendo le ordinazioni, un cliente sulla cinquantina, seduto al suo tavolo da solo, le chiede all'improvviso se lei sia davvero una cameriera. La domanda la spiazza. Il primo pensiero, abituata com'è ad avere a che fare con uomini viscidi, è che le stia facendo delle avance. Alza la testa dal foglio del menù e con tranquillità risponde che in effetti è una cantautrice, ma che purtroppo non si vive di sola arte. Lui si fa una risata e poi le rivela di essere un impresario musicale e le propone di fargli sentire alcuni pezzi. Annie, che non è una sprovveduta, continua ad avere il dubbio che la voglia sedurre, ma decide di fidarsi. Scambio di numeri, appuntamento fissato, giusto il tempo di passare da casa a fine turno per farsi una doccia e raccogliere il materiale prodotto. Annie è nell'ufficio dell'uomo pronta per la sua prima inaspettata audizione. A raccontarlo sembra incredibile, ma io credo nel destino. Ed è stato proprio il destino a mandare quell'uomo al mio ristorante. Non solo non ci ha provato, era davvero interessato a quello che gli stavo facendo ascoltare. Non credeva ai miei occhi, ma quando sono uscita dal suo ufficio avevo in mano un contratto. Poche lire, niente di importante o prestigioso, ma ero così felice. Firmare un contratto, per quanto di poco conto, non è mai una cosa da prendere sotto gamba. Annie, coscienziosa e pratica, mette per un attimo da parte l'entusiasmo e chiede consigli a un suo amico che a sua volta le presenta un altro suo amico. Ancora la Lennox non lo può sapere, ma questo ragazzo è scritto nel suo destino. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a metà degli anni 70 e Annie Lennox sta per mettere piede nel mondo della musica ufficiale. Nata e cresciuta ad Aberdeen, Scozia, ha studiato pianoforte e flauto traverso ed è stata ammessa alla prestigiosa Royal Academy of Music di Londra. È qui, nel suo appartamento di Notting Hill, che ha capito che la sua vera strada è quella di cantautrice. Per mantenersi nel frattempo ha fatto di tutto, dalla libraia alla commessa, dalla barista alla cameriera in un ristorante. Il destino le ha offerto la sua prima occasione proprio mentre stava servendo un cliente, che le ha rivelato di essere un impresario musicale e dopo aver ascoltato i suoi pezzi, le ha proposto un piccolo contratto. Adesso, prima di firmarlo, sta per incontrare un ragazzo molto più esperto di lei in queste cose, perché è già stato in varie band. È stato un amico comune a suggerirglielo affinché le possa dare dei consigli. Il suo nome è Dave Stewart. Dave aveva una gran voglia di parlare. Ci siamo trovati in un pub, abbiamo ordinato una birra e dopo aver liquidato in pochi minuti la questione contratto, si è messo a raccontarmi tutta la sua storia. Sunderland, Inghilterra nord-orientale, contea metropolitana di Tyne and Wear. La città, che conta quasi 200.000 abitanti, si affaccia sul mare ed è spaccata in due dal fiume Wear, che passa nel centro, creando versanti particolarmente ripidi. Qui, nel 1828, nasce il fisico Joseph Swan, inventore della lampadina, mentre siamo nel 1952, quando viene alla luce, in un 9 settembre già freddo e abbondantemente piovoso, David Alan Stewart, che diventa subito per tutti Dave. Il piccolo Dave ha in mente soltanto una cosa: il calcio. In città c'è una solida tradizione legata al Sunderland AFC, che milita in Premier League e riempie lo stadio ogni partita. E anche la famiglia Stewart va spesso a vedere i Black Cats, i gatti neri, come vengono chiamati i membri della squadra. Dave è anche un appassionato giocatore che si allena 3 volte la settimana dopo la scuola e aspetta con impazienza la domenica, quando i genitori sugli spalti incoraggiano e fischiano durante le sfide del campionato tra ragazzi. Finché un giorno una brutta caduta gli provoca vari problemi a un ginocchio e il medico, che all'inizio è ottimista, gli consiglia di appendere le scarpette al chiodo. Per me è stato un vero dramma. Lo ricordo ancora oggi quanto ho sofferto. Ho pianto per giorni. Sognavo di diventare un calciatore professionista e invece non potevo nemmeno più mettere piedi in campo. Per consolarlo dalla cocente delusione, in casa gli propongono di tutto. Ma cinema, regali, gite fuori porta non servono a nulla. Finalmente un giorno papà ha un'illuminazione, gli compra una chitarra. Dave ringrazia con educazione, la mette in un angolo, dimenticandosela per settimane. Poi un giorno, mentre sono già tutti seduti a tavola, sentono delle note arrivare dal piano di sopra. Decidono di non interrompere quello che sembra il principio di una rinascita. Mangiano e quando arrivano alla frutta Dave scende dalle scale e fa il suo annuncio. Vuole cominciare a prendere lezioni di chitarra. La chitarra non ci mette molto a far dimenticare a Dave Stewart il calcio. Si esercita da solo e con il suo insegnante, prima un giorno alla settimana, poi 2, fino ad arrivare a farlo tutti i giorni, feste comandate incluse. Diventa per lui una forma di bisogno fisiologico. Deve per forza suonare. Dormiglione di natura, si sveglia prestissimo se ha una canzone nuova da provare e poi va a scuola. Lo studio in effetti lo appassiona molto meno. Frequenta le lezioni per inerzia, porta a casa voti accettabili per essere promosso e cerca sempre di svicolare le interrogazioni. Ecco perché, una volta portato a termine il percorso obbligatorio, decide che è arrivato il momento di lasciare la scuola per tentare seriamente con la musica. A me interessava soltanto la chitarra, tutto il resto, incluso lo studio, mi sembrava una perdita di tempo. Ero ancora un ragazzino, ma sapevo benissimo che volevo dedicare la mia vita alla musica. All'inizio degli anni 70 i giovani stanno conquistando il mondo e in ogni campo si ha la sensazione che tutto sia possibile. In America il programmatore Ray Tomlinson inventa le email. In Italia la pillola anticoncezionale non è più clandestina. Le sonde spaziali raggiungono Marte. Nella musica c'è la massima sperimentazione. Si mescolano i generi, le culture, le tradizioni e i grandi gruppi si lanciano in novità senza precedenti. Per esempio, i Pink Floyd registrano a Pompei un live che rimane l'unico concerto rock della storia fatto a porte chiuse, mentre è di Elvis Presley che sta cantando alle Hawaii, il primo concerto in mondovisione grazie al satellite. Dave Stewart, trascinato dall'atmosfera ideale e dall'entusiasmo di chi sente di avere talento, entra nel suo primo gruppo formato da ragazzi che hanno più o meno la sua età. Si chiamano Long Dancer e fanno folk. Anche se hanno a disposizione strumenti piuttosto logori e una sala prove che devono condividere con altre band, è enorme la felicità che prova Dave all'idea di passare le sue giornate a fare musica. Poco alla volta, oltre a suonare, impara le dinamiche che gli serviranno in futuro, dalla gestione organizzativa e logistica durante i concerti ai contratti che spesso i proprietari dei locali cercano di girare a loro favore. C'era molto movimento, fervore creativo, una grande concorrenza e spesso i gestori dei pub cercavano di abbassare i costi in modo da ingaggiare più musicisti per coprire più sere. Gli artisti di solito trovavano noiose queste faccende, ma la prima cosa che ho spiegato a Annie quando l'ho incontrata è che bisogna cercare di curare ogni dettaglio, non basta salire sul palco. I Long Dancer all'inizio riescono ad avere una discreta fama, prima soltanto nella zona e poi in tutta l'Inghilterra. Una piccola casa discografica li contatta per produrli e distribuirli e la strada sembra essere in discesa. Ma la ricetta per un successo sicuro non esiste, o meglio, a volte basta sbagliare qualche ingrediente perché il risultato non esca come ce lo si aspettava. Dopo alcuni mesi, i Long Dancer, frustrati e in continua polemica con la casa discografica, si sciolgono. La cosa non dispiace affatto a Dave, che anzi l'aveva caldeggiata. Il fatto è che ha cambiato il suo stile. non più un folk di stampo tradizionalista, ma la strada della sperimentazione. Gli interessano le nuove sonorità, gli ibridi, il contatto con persone e artisti diversi da lui, che possano insegnargli qualcosa e ai quali lui stesso possa insegnare. E così entra nel gruppo Child, che fa rock progressivo. Si tratta di un'evoluzione del rock in senso più classico, che vuole costruire non brani, ma vere e proprie opere d'arte. La definizione, hanno detto in molti, non rende giustizia alla sua complessità. È un genere colto che discende dal rock psichedelico e vuole toccare nuove frontiere, valorizzando la varietà compositiva e melodica anche attraverso l'uso di altre influenze. Negli anni 70 fare musica significava solo una cosa: sperimentare. Tutto era l'insegna della rottura, la tradizione andava bene solo se mescolata con altro. Stavo benissimo, pensavo che non sarei riuscito ad andare oltre come musicista, invece poi è arrivata lei. Lei è Annie Lennox. Magra, timida, inesperta, con in mano il suo primo contratto strappato a un avventore del ristorante dove lavora, che per puro caso fa anche il discografico. A suggerirle di parlare con Dave è un amico comune che forse, chissà, intravede nei due una compatibilità che può andare ben oltre la consulenza. L'appuntamento è in un bar di Londra. Dave, che da musicista puro vive più o meno da nomade, ha fatto della capitale la sua base, il luogo dove creare e dove rilassarsi con gli amici. Gli sembra strano, quando vede Annie la prima volta, non averla mai incontrata. Quando lei incomincia a parlare, ha l'impressione di conoscerla da sempre. Dopo le domande che riguardano specificatamente il contratto, cioè il vero motivo dell'appuntamento, Dave e Annie cominciano a parlare di tutto, dalla storia della loro vita alla musica, dal rapporto con i soldi alla letteratura. Come in un film romantico in cui tutto sembra scivolare con facilità, anche tra loro non c'è mai un imbarazzo, un silenzio scomodo, qualcuno che dice qualcosa di sbagliato. Inutile negarlo. Dave mi ha rapita. Con quella sua aria d'artista, il fascino di chi vive ogni giorno come se fosse l'ultimo. E poi non era per niente ombroso, anzi era molto solare. Lo è sempre stato. Tra i due ero io quella più dark. Comincia così un amore che presto finirà. Ma da questo magico primo incontro nascerà il più grande duo pop degli anni Ottanta. E quindi di un'intera epoca. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1976 e due ragazzi poco più che ventenni stanno per unire i loro destini. Lei si chiama Annie Lennox, è una timida scozzese, magra, tranquilla ed è arrivata a Londra qualche anno prima per studiare musica alla prestigiosa Royal Academy. Dopo essersi dedicata al flauto traverso, ha capito che la sua vera passione è un'altra, la canzone. E così, tra un lavoro saltuario e l'altro per tirare a campare, ha cominciato a scrivere e cantare pezzi, fino al primo piccolo contratto discografico. Lui non potrebbe essere più diverso. Scapestrato già da piccolo, ha sognato di diventare un calciatore finché una caduta gli ha causato problemi al ginocchio tali da impedire l'agonismo. I suoi genitori, per consolarlo, gli hanno regalato una chitarra e lui da quel momento non ha più pensato ad altro. La musica ha sempre rappresentato tutta la mia vita, finché non ho conosciuto Annie. Lei non l'ha sostituita, ma ha cominciato a farne parte. Annie Lennox e Dave Stewart cominciano a suonare insieme nel gruppo The Tourists. Tra di loro va tutto a gonfie vele, ma con gli altri membri della band i litigi sono all'ordine del giorno. In un clima così poco sereno è difficile creare, e forse è anche per questo se il successo non arriva mai. Dave, polistrumentista, discute molto spesso con il compositore Pete Combees perché non condivide le sue scelte artistiche e i giornali britannici si lasciano andare a critiche per nulla leggere. Come se non bastasse, ci sono problemi legali con il management e gli editori che preferiscono uno stile poco innovatore. Ancora una volta è proprio l'urgenza di sperimentazione a spingere Dave Stewart ad andarsene. Se la musica è il suo modo di reagire alle convenzioni sociali, non ha senso adattarsi anche all'interno del gruppo a scelte che non gli appartengono. molla i Tourists. E Annie Lennox non deve farsi troppo pregare per seguirlo. Anche lei, di formazione classica, sente che è arrivata la sua occasione per osare. Non riuscivo ad ammetterlo, ma ho sempre avuto un po' paura a spiccare il volo da sola. E il fatto di avere Dave vicino mi ha fatto sentire protetta, sicura. Prima che un grande musicista è un grande uomo, ha saputo darmi la forza di provarci veramente. 1980, Londra. Annie Lennox e Dave Stewart decidono di buttarsi anima e corpo in un nuovo progetto, qualcosa di libero, flessibile, nel quale esprimere al meglio ognuno il proprio talento. Non hanno intenzione di mettere da parte del tutto la musica pop, ma sono attratti anche dalle sonorità elettroniche. Una cosa hanno ben chiara: vogliono coinvolgere musicisti in collaborazioni di vario genere, ma essere loro due soltanto, a lavorare sia alle canzoni che agli arrangiamenti. Sono nati gli Eurythmics. Il primo album degli Eurythmics esce nel 1981 e dà il via a una lunga serie di collaborazioni. A Colonia con il leggendario discografico e musicista Connie Plank, con i Can, avanguardia tedesca, con il batterista Clem Burkey dei Blondie. Il sapore che si ottiene shakerando tutti gli elementi è psichedelico, elettropop. Ma il successo non arriva. Nemmeno due singoli lanciati in radio servono a fare da traino. E così Annie e Dave tentano il grande colpo. Sopra una fabbrica di cornici in un tipico edificio londinese c'è un locale dismesso. I muri cadono a pezzi, il pavimento è da rifare, ma Stewart e Lennox capiscono subito che è il posto che fa per loro. Si fanno fare un piccolo prestito, lo comprano, lo sistemano e ne ricavano un piccolo studio da 8 tracce. In questo modo hanno finalmente la possibilità di provare e riprovare, registrare quanto vogliono senza pagare le cifre esorbitanti che gli chiedono gli studi di registrazione. Stavamo lì ore, giornate intere, a volte non tornavamo neanche a casa a dormire. Era molto stancante, ma così bello che la fatica non ci pesava. Non sappiamo neanche fare il conto di quante ore abbiamo registrato. Cominciano a usare sempre più elettronica. Collaborano con personaggi come Reinhard Faulkner, Adam Williams, ma è ancora tutto inutile. I 3 singoli pubblicati sotto l'etichetta RCA nel 1982 fanno flop. La condizione degli Eurythmics si fa sempre più critica. È vero che sono indipendenti, ma il rovescio della medaglia è che sono esausti. Occuparsi di tutto, come ha sempre scelto di fare Dave, può rivelarsi controproducente se si somma alla frustrazione di un successo che non arriva. Ne risentono umore e salute. Annie soffre di crisi nervose. Dave viene ricoverato per un collasso polmonare. Finché, quando tutto sembra sul punto di finire, un errore ribalta il destino degli Eurythmics. Studio di registrazione. Annie stanca, annoiata e in crisi, è seduta per terra con le lacrime agli occhi. Dave, più arrabbiato che deluso, cerca di non mostrare quello che prova per non turbare ulteriormente lei e lavora come se niente fosse. Però è distratto. Mette su una traccia senza troppa attenzione e questa viene riprodotta all'incontrario. Si sente un incredibile suono di bassi sintetizzati. Annie di scatto alza la testa e cerca lo sguardo di Dave. Lui ha già capito cosa vuole dirgli e costruisce un'intera sequenza di bassi sintetizzati sulla base di quello che per sbaglio hanno appena sentito. Nasce il singolo Sweet Dreams Are Made of This. In un attimo gli Eurythmics esplodono. Non ci credevo, non poteva essere vero. Con Sweet Dreams il successo è arrivato in un colpo solo. Abbiamo fatto boom, siamo passati da niente a tutto. Sweet Dreams cambia il destino degli Eurythmics. Primo posto in classifica, un successo via l'altro, 7 album in 7 anni e tour infiniti in giro per il mondo. Annie compare sulla copertina di Rolling Stones, diventando l'icona androgina per eccellenza, finché esausta decide che vuole tempo per sé, per capire se esiste anche senza il duo. Nel 1990 abbandona Stewart, con cui l'amore era già finito da diversi anni, e i due, che sono come fratelli, non si parlano più fino al 1998. Entrambi tentano la carriera da solisti, ma mentre la Lennox si conferma una voce raffinata che vince perfino l'Oscar per la migliore canzone con Il Signore degli Anelli, Stewart, senza di lei, stenta a decollare. La richiama, vuole che lavori al suo fianco. Esce nel 1999 Peace, l'album della conciliazione. Stewart, entusiasta, rimette mano a tutto il materiale accumulato nelle notti insonni in studio di registrazione e viene alla luce la Ultimate Collection degli Eurythmics. Ma forse Dave Stewart ed Annie Lennox stanno pensando già a qualcosa di nuovo. Perché? In fondo i sogni più dolci non sono fatti di questo?